Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e lo sviluppo del pensiero mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 682 e parleremo degli effetti di lungo periodo della guerra in Ucraina, dell'incessante guerra ai lupi, di balene e di grandi università che provano ad abbandonare le vetuste tradizioni alimentari ereditate dal passato. La ricetta della settimana e la colonna sonora di questa puntata sono a cura del nostro chef, nonché DJ, Gabriele Palloni. Della terribile guerra in corso in Ucraina abbiamo la sensazione di sapere molto, visto che le cronache da quel paese occupano molto spazio nei media ufficiali, specie in queste settimane segnate da un angosciante clima di radicalizzazione e dalla minaccia di un'ulteriore escalation del conflitto. In verità, però, sappiamo ben poco sulla dimensione delle distruzioni umane, animali, ambientali, materiali procurate da questo anno di conflitto. Le cifre ufficiali delle vittime umane sono in apparenza piuttosto basse, si parla di circa 20.000 morti, sempre troppi perché ogni vita perduta è un dramma per la comunità umana. Ma dobbiamo purtroppo temere che la cifra reale sia probabilmente un multiplo di 20.000. Si parla in via ufficiosa di centinaia di migliaia di vite umane annientate fra militari ucraini e russi e civili ucraini. Su tutto però grava il silenzio strategico delle parti in guerra. Si sa che durante un conflitto, specie nel XXI secolo, la comunicazione è parte dello scontro e quindi silenzi e manipolazioni sono inevitabili. Siamo allora ben consci di vedere assai poco di ciò che davvero accade sul terreno. Sappiamo poco anche dei danni materiali e soprattutto di quelli ambientali, cioè distruzioni, contaminazioni, inquinamenti, destinati a segnare quel martoriato territorio anche nei decenni a venire. È il prezzo concreto della guerra, spesso dimenticato. Più il conflitto è lungo, più si incrudelisce, più condizionerà le future generazioni e per più tempo. Un fascio di luce su alcuni di questi aspetti arriva da un rapporto di Greenpeace realizzato insieme con la ONG ucraina Eco Action. È una mappa dei danni ambientali causati dalla guerra, una dettagliata denuncia dell'ecocidio che si accompagna inevitabilmente al conflitto, combattuto con armi altamente distruttive e altamente inquinanti. La mappa, con testi, immagini satellitari, cartine dettagliate, illustra 30 dei 900 eventi raccolti per evidenziare gli impatti ambientali più gravi. In base alle informazioni ufficiali, dall'inizio delle ostilità sono stati danneggiati circa il 20% delle aree naturali protette del paese, 3 milioni di ettari di foreste, mentre altri 450.000 ettari si trovano in zone occupate o interessate direttamente dai combattimenti. Denis Tsutsayev di Greenpeace a Kiev ha spiegato che mappare i danni causati dalla guerra in Ucraina è complicato dal fatto che gran parte del territorio liberato potrebbe essere disseminato di mine e di altri ordigni esplosivi, mentre le forze russe occupano ancora parti del paese, il che rende impossibile la raccolta dei dati. La mappa mostra come l'invasione russa abbia devastato l'ambiente ucraino. La guerra ha provocato incendi, danneggiato gli habitat e inquinato l'aria, il suolo, mentre i bombardamenti dei siti industriali hanno provocato ulteriori contaminazioni. Le esplosioni, inoltre, rilasciano di per sé nell'atmosfera un cocktail di composti chimici. Il principale, l'anidride carbonica, non è tossico, ma contribuisce al cambiamento climatico. Gli ossidi di zolfo e di azoto possono inoltre provocare piogge acide, modificando i pH del suolo e causando la bruciatura della vegetazione. soprattutto delle conifere. Le piogge acide inoltre sono pericolose per gli esseri umani e per la fauna, perché hanno un grave impatto sulle mucose e sugli organi respiratori. Anche i frammenti metallici delle granate sono pericolosi per l'ambiente. La ghisa, mista ad acciaio, è il materiale più comune per i bossoli delle munizioni e non contiene solo ferro e carbonio, ma anche zolfo e rame. Queste sostanze si infiltrano nel terreno e possono finire nelle acque sotterranee, entrando nelle catene alimentari di esseri umani e animali. Insomma, l'intera regione è a rischio di catastrofe ambientale e presenta gravi pericoli per la salute della popolazione circostante. Greenpeace ed EcoAction, nel presentare questo rapporto, chiedono che la ricostruzione delle città avvenga parallelamente al ripristino ambientale del paese. Ma la premessa di tutto ciò, naturalmente, dovrà essere un cessate il fuoco. La mappa dei danni ambientali causati dalla guerra in Ucraina è consultabile sul sito di Greenpeace. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i police. Era bello finché ha bussato la police. Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Noi non siamo come sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì. Abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane della guerra ai selvatici, in particolare ai lupi, in corso in Italia e nel resto d'Europa. È un accanimento che tradisce una postura aggressiva e violenta, un desiderio di repressione che nella nostra società transita dai rapporti con gli animali a quelli fra gli umani. Nei giorni scorsi un altro lupo è stato ucciso in Italia, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, quindi un animale protetto, all'interno di un territorio protetto. Si tratta di un atto ignobile e ovviamente anche illegale, attuato evidentemente da un cacciatore, visto che il giovane lupo è stato assassinato da un proiettile di grosso calibro. Sappiamo quanto siano schivi i lupi, quanto rifuggano la presenza umana, nonostante le tante dicerie sul loro conto. Perciò deve essersi trattato di un agguato, opera di persone non solo ben armate, ma anche capaci di muoversi con disinvoltura in alta montagna. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, nel riprendere la notizia parla apertamente di emergenza bracconaggio in Italia. Sono almeno 14 lupi uccisi dall'inizio dell'anno, dunque 7 al mese, un numero enorme, se pensiamo che i lupi in tutto il territorio italiano non sono più di 3.000. Allora l'ENPA, che annuncia l'intenzione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che dovessero aprirsi in merito a questi episodi, chiede al governo di intervenire con forza contro il bracconaggio. Ma questo appello ha finora trovato orecchie da mercante. È un classico della politica, che guarda al mondo venatorio e a quello degli allevatori, avversari spesso paranoici dei lupi, come possibili bacini elettorali, e non ha cura, per propri limiti culturali, politici, storici, della vita vegetale e animale. ENPA ricorda anche l'insensata e ingiustificata campagna di allarmismo, queste le parole utilizzate, che si traduce in una voluta psicosi, orchestrata d'arte per giustificare e autorizzare l'abbattimento di lupi, che sono animali particolarmente protetti dalla legge 157 sulla fauna del 1992, dalla direttiva europea Habitat e dalla Convenzione di Berna. Tutte norme e convenzioni, come abbiamo già riferito in passate puntate, che alcune forze politiche e certi governi europei vorrebbero mettere in discussione. Sul tema del nostro rapporto con i selvatici e delle implicazioni culturali e politiche di queste relazioni, vi invitiamo a leggere l'intervento di Restiamo Animali alla manifestazione del 12 febbraio scorso a Firenze. Il testo è disponibile sul sito restiamoanimali.it. Cosa in cui credi davvero? ci lascia sbigottiti sapere che Papa Francesco ha scelto un circo con animali per invitare poveri, senza tetto, profughi e carcerati a un pomeriggio di svago, cui ha partecipato anche il cardinale Konrad Krajewski, l'elemosiniere, che al centro della pista si è fatto scavalcare da un elefante. È stata quindi offerta una forma grottesca di oppressione, violenza e schiavitù a persone che magari proprio da situazioni violente, oppressive, provengono e avrebbero forse bisogno di uscirne. Non è sfuggita l'occasione a OIPA, l'associazione animalista, per esprimere biasimo verso questa iniziativa. OIPA fa notare che il pontefice spesso ha espresso l'esigenza di un maggiore rispetto per la natura, anzitutto nell'enciclica Laudato Si del 2015. Quindi questa scelta appare un controsenso con il suo cosiddetto magistero ecologico, perché dietro gli esercizi dello spettacolo circense si nascondono privazioni, maltrattamenti e sofferenze per gli animali che vivono in cattività, dietro le sbarre, con spazi a disposizione esigui e perennemente sotto stress. Animali costretti a una vita contro natura. L'OIPA sottolinea anche che, al contrario di quelli che usano gli animali, gli spettacoli circensi con soli acrobati e clown possono essere assai più educativi, mostrando i talenti umani e non le penose condizioni di esseri senzienti costretti dall'uomo a dare spettacolo a forza di pesanti addestramenti. D'altra parte, prosegue Comparotto, che è il presidente dell'OIPA, già altre volte Francesco ha espresso la sua visione, in cui, a dispetto del nome che ha preso, la vita animale è meno importante della vita umana. Nel 2016, infatti, affermò che, di fronte a un animale ferito, si prova pena, ma non misericordia. E spesso ha contrapposto l'amore per gli animali a quello per i figli, come se l'amore fosse qualcosa di limitato, qualcosa a esaurimento. Inoltre, Papa Francesco riceve in Vaticano e benedice circensi, che tengono in cattività animali costretti al ruolo di buffoni. Insomma, un Papa non proprio dalla parte degli animali. L'OIPA rivolge quindi al pontefice un semplice messaggio. Chi sente che la vita è sacra dovrebbe amarla al di là delle specie, e noi siamo assolutamente schierati con OIPA contro questa malinconica iniziativa. Una notizia insolita e terribile ha ulteriormente funestato le cronache sul devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Una decina di balene sono state trovate spiaggiate a Cipro e solo per tre di loro si è riusciti a ricondurle in mare e salvarle. Le autorità hanno identificato gli animali come balene dal becco di Cuvier. L'imprevisto spiaggiamento ha fatto pensare a una conseguenza del sisma. Questi animali, ha spiegato Yannis Yannou, del Dipartimento della Pesca e della Ricerca Marina di Cipro, hanno un sistema di ecolocalizzazione che è influenzato dal rumore del mare. Quindi queste balene potrebbero essere state dirottate da esercitazioni militari, esercitazioni sismiche o anche, probabilmente, dal terremoto avvenuto nella regione. Questo triste episodio cade proprio nei giorni in cui si celebra la Giornata Mondiale della Balena, istituita nel 1980 per sensibilizzare attorno alle condizioni di vita di questi animali, sottoposti a un'enorme pressione, sia per la caccia, sia per il traffico nautico, per l'inquinamento chimico e da plastiche e microplastiche, e infine per gli effetti dei cambiamenti climatici. Le balene sono state giustamente definite dei giganti fragili e sono da tempo alle prese con una sfida esistenziale decisiva, la progressiva perdita dei loro stessi habitat. La Giornata Mondiale delle Balene fu istituita su idea di Greg Kaufman, il fondatore della Pacific Whale Foundation, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla minaccia di estinzione di questi grandi animali marini. Nel Mediterraneo, fra le specie residenti, è possibile avvistare la balenottera comune, il più grande cetaceo del Mare Nostrum e il secondo animale più grande del pianeta, dopo la balenottera azzurra. Il WWF ricorda che nel Mediterraneo si stimano oggi meno di 5.000 esemplari di balenottera comune, minacciata dalle crescenti attività antropiche. Le balene, dice ancora il WWF, sono amiche del clima, perché è in grado di sequestrare grandi quantità di carbonio dall'atmosfera, circa 33 tonnellate di CO2 per ogni balena, mentre di media un albero ne immagazzina meno di 50 kg all'anno. Grande Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti che hai? Dolce Moby Dick, nessuno t'ha baciata mai. Grande Moby Dick, regina madre, segui le stelle che sai. Non fidarti della croce del sud, la caccia non finisce mai. E danzerai soltanto se la marina, e danzerai col petto cuore la luna. Chi impazzito dietro te non tornò mai più. Secondo le stime più recenti, circa l'8-9% della popolazione in Italia pratica la scelta vegana o vegetariana. Possiamo pensare che percentuali simili riguardino il resto d'Europa, pur nella difficoltà di avere dati credibili e soprattutto comparabili. Sappiamo di sicuro, anche per esperienza diretta e quotidiana, esperienza che può essere testimoniata pressoché da chiunque, che il numero di vegetariani e vegani è crescente negli ultimi 10 anni e che fra le giovani generazioni tale scelta è più diffusa che fra gli adulti. Qualcosa, insomma, sta cambiando nel rapporto con gli animali non umani, con il cibo, con il modo di produrlo. Una conferma arriva dalla celeberrima Università Britannica di Cambridge, un tempio europeo degli studi, dove la carne e i derivati animali di qualunque tipo e specie potrebbero presto sparire da tutte le caffetterie e da tutte le mense. A preannunciarlo sono i media del Regno Unito, all'indomani del voto favorevole espresso dalla maggioranza degli studenti della Cambridge Student Union, organismo di rappresentanza degli iscritti all'Ateneo. Voto favorevole alla proposta di avviare negoziati con il rettorato per cercare di imporre menù esclusivamente vegani all'interno dei campus. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a cancellare l'offerta di qualsiasi prodotto di origine animale, a beneficio di menù vegetali sostenibili al 100%. Questa forte presa di posizione nasce da una campagna ad hoc, lanciata in una quarantina di atenei britannici da un collettivo di studenti ambientalisti sotto le insegne di Cambridge's Plant-Based University Campaign, con il sostegno degli attivisti di Animal Rebellion, filiazione del gruppo Extinction Rebellion. La mozione, sottoposta al voto, ha ottenuto il 71% dei consensi, anche se va detto che l'astensione dalle urne è stata significativa. Comunque, la decisione finale spetterà ai vertici amministrativi dell'università, visto che gli studenti non hanno il potere di stabilire quali alimenti ammettere e quali no. D'altra parte, gli studenti sono convinti di aver ricevuto un mandato forte a cambiare le cose e quindi si apprestano a un braccio di ferro con le autorità amministrative dell'Ateneo. Già dal 2016, su pressione di movimenti vegani e vegetariani, la società che gestisce i servizi di mensa a Cambridge aveva eliminato la carne bovina e l'agnello da tutti i menù disponibili. Un'analoga decisione è stata adottata nel 2020 anche a Oxford, storica rivale della Università di Cambridge, dove però alcune carni rosse vengono tuttora servite. Could be here to try. Elsa comes, the screaming night. A proposito di cibo e delle mille idee che sorreggono un'alimentazione e una cucina su base esclusivamente vegetale, ecco che Gabriele Palloni ci propone la sua ricetta della settimana, ispirata come sempre a una delle notizie che abbiamo trattato durante la puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo qual è la sua proposta per questa puntata. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ricetta dedicata al circo, che offre uno spettacolo libero dalla sofferenza animale, che rinuncia a gabbie e fruste per celebrare l'arte dei trapezisti, dei funnambuli, giocolieri e clown, e in onore degli acrobati che vivono l'azzardo in prima persona, una ricetta che corre ugualmente sul filo del rasoio per un accostamento insolito di sapori, le tagliatelle al cacao con cavolfiore e fondente. Gli ingredienti per 4 persone sono, per la pasta, 180 g di semola di grano duro, 80 g di farina forte tipo Manitoba, 40 g di farina di ceci, 20 g di cacao amaro in polvere, 160 ml di acqua, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e sale. Per la salsa, un cavolfiore, una cipolla, 50 g di cioccolato fondente al 90%, 150 ml di latte di soia al naturale, olio extravergine, sale e pepe nero. Iniziate preparando la pasta per le tagliatelle. Setacciate le farine e il cacao e disponete la fontana su una spianatoia. Versate al centro l'acqua e l'olio extravergine. Aggiungete un pizzico di sale e lavorate per una decina di minuti, fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare per 30 minuti. Nel frattempo sbucciate la cipolla e affettatela finemente. Fatela scottare con mezzo bicchiere di acqua e quando questa si sarà ritirata, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. Aggiungete i broccoli di cavolfiore che avrete pulito e tagliato a pezzetti. Aggiustate di sale e pepe e fate cuocere a fuoco lento col coperchio fino a quando il cavolo sarà morbido ma ancora croccante. A fine cottura unite il latte di soia e fate ritirare per 5 minuti, quindi togliete dal fuoco. Stendete la pasta ad uno spessore di mezzo centimetro e ricavate delle tagliatelle. Cuocete le tagliatelle in abbondante acqua salata per circa 4 minuti. Scolate al dente e condite con la crema di cavolfiore e, se necessario, aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Terminato il piatto, grattugiando il cioccolato fondente prima di servire. È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Chiudiamo questa puntata, come abbiamo fatto altre volte, con un estratto da un libro che ci è caro. Si chiama Cronache ribelli e porta come sottotitolo Almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore, edito da CR Edizioni. È un almanacco che ha una sua grande originalità. Include storie e azioni di ribellione compiute in giro per il mondo e attraverso le epoche nella direzione della giustizia. E ha la particolarità di aprire uno sguardo sul mondo animale, tanto che alcuni dei protagonisti di questi 250 episodi sono animali o persone che agli animali e insieme agli animali hanno condotto le proprie imprese. Oggi prendiamo la data del 20 settembre. ed è dedicata ad Upton Sinclair. Upton Sinclair, nato il 20 settembre 1878, è stato un giornalista, scrittore e attivista statunitense. Nel 1906, dopo un grande lavoro di ricerca e indagine, pubblicava La giungla, attraverso la storia di Jurgis, giovane operaio lituano appena sbarcato negli USA. Sinclair attaccava direttamente uno dei principali colossi economici degli Stati Uniti, l'industria della carne, industria che a Chicago aveva i suoi stabilimenti più importanti ed esercitava un controllo pressoché totale sulla vita pubblica. Le minuziose descrizioni degli stabilimenti, in cui le condizioni igienico-sanitarie erano assenti e venivano violate le più elementari norme, sconvolsero a tal punto l'opinione pubblica che il Congresso americano fu costretto a varare alcune leggi per regolamentare il settore. Sinclair, convinto socialista, raccontò puntualmente lo sfruttamento dei lavoratori, il potere della lobby della carne, la corruzione delle istituzioni, i fallimenti individuali e il riscatto collettivo, anticipando inconsciamente alcuni temi come l'ecologia e il diritto animale, che ancora per molti anni non sarebbero stati presi in considerazione dall'opinione pubblica. Dalla giungla, una frase di Upton Sinclair. Jurgis avrebbe visto il trust della carne sotto tutti gli aspetti ed ogni singolo aspetto gli si sarebbe rivelato identico agli altri. L'incarnazione dell'avidità cieca e insensibile, il mostro insaziabile dalle mille fauci, dalle mille zampe che tutto calpestavano, il grande macellaio, il simbolo stesso dello spirito del capitalismo. Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. CR Edizioni. No, no, no, non ci siamo capiti. Ho detto controlliamo se ricordi la fine. Quando dico ciao, stacca tutte le spine, ciao. No, no, non è questo che intendevo. Ho detto controlliamo se ricordi la fine. Quando dico ciao, stacca tutte le spine, ciao. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.